questa inchiesa sorta alla preghiera, ed il mio cuore che è sempre innamorato dei baci tuoi non ha dimenticato, ha pianto ancora per te. La gente mi guardava ed ho sentito che il cor batteva forte, son fuggito celando il mio tormento, il mio soffrire, per non morire. Oh, Marirosa, m'han detto che domani tu vai sposa, però ti han vista piangere desolata, lo so che non ti puoi scordar di me, è troppo triste questa serenata, ma è l'ultima che io canterò per te. M'han detto che domani tu vai sposa. Avevo un bel geranio alla finestra, color della tua bocca corallina, lo coltivavo sempre ogni mattina, pensando a te, mio amore. Mi ricordava i baci che m'hai dato, dono a te che sposi l'ho mandato, potrà quel fiore vivere per me accanto a te. Oh Marirosa, m'han detto che domani tu vai sposa, però t'han vista piangere desolata, lo so che non ti puoi scordare di me, domani suoneranno le campane e forse qualche amico mi dirà e andata sposa la donna del tuo cuore, Marirosa.